Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Abbiamo fatto una modificazione strutturale. Di solito la scaletta era, diciamo, costruita su una presentazione con la sigla piuttosto corta, invece questa volta abbiamo voluto esagerare, l'abbiamo mandata un po' più a lungo, la sigla storica ormai di 451 frammenti sonori, che chiaramente vi saluta e vi augura una buona serata in compagnia delle nostre musiche. Ricordiamo sempre 451 frammenti sonori, trasmissione legata alle sperimentazioni, alle ricerche sonore, alle musiche d'avanguardia, e trasmissione che stasera sarà condotta solo da me. Dunque una buona serata da Elisio Scarpe, un saluto chiaramente al compagno di tante avventure, di tanti viaggi, cioè Max Macchia, che questa sera non sarà presente. Lo saluto cordialmente, non farò la battutina che invece lui mi ha riservato scherzosamente ovviamente la scorsa settimana quando io mancavo. Invece lui era presente alla chiamata della radio e dell'etere, e stasera 451 frammenti sonori svilupperà un discorso abbastanza divertente e per certi versi anche divertito su un universo sonoro, su una terra magica, particolare, anche parecchio delirante dal punto di vista artistico, e cioè il Giappone. Molte volte la musica dal Giappone, sperimentale chiaramente, legata a tutta una serie di linguaggi e di percorsi musicali che si inseriscono all'interno del nostro contenitore musicale, ha attraversato spesso le trasmissioni di 451, ma non avevamo mai dedicato una trasmissione proprio su questa terra, e abbiamo studiato un titolo, una trasmissione che abbiamo voluto chiamare Unconventional Jazz from Japan, ed è ovviamente connessa alle forme non convenzionali, partendo dal linguaggio jazzistico ma andando chiaramente anche molto oltre, attraversando dimensioni ambientali per arrivare poi a collegamenti con le musiche tradizionali giapponesi, l'elettronica presentissima, il rapporto chiaramente fortissimo tra tecnologie e tradizioni nella musica e nell'arte giapponese, per arrivare anche a dimensioni sonore vicine anche all'industriale, sempre però appunto partendo dal linguaggio jazzistico di progetti di musicisti che attraversano, diciamo, questa definizione di jazz non convenzionale appunto giapponese. E abbiamo deciso di aprire questo percorso sonoro con un personaggio piuttosto importante sulla scena musicale jazzistica e non, perché ha lavorato anche in progetti piuttosto importanti, in primo luogo una formazione storica come i Boredoms, ma anche i Naked City, e parliamo di Yamazukai, che ha lavorato anche spesso con il grande John Zorn, con Bill Oswell, con tantissimi musicisti che si possono inserire all'interno dell'universo jazz, ma che sono andati spesso molto ma molto oltre. E Yamazukai, in un progetto che oltretutto si chiama in maniera anche abbastanza giocosa e divertita Yamatakai, gli autori giapponesi spesso modificano il proprio nome, cambiano progetti attraverso appunto un gioco anche di parole sul proprio nome, ha fatto uscire un disco splendido, assolutamente splendido e importantissimo per coloro che amano il delirio, la giocosità e la pazzia anche della musica giapponese. È un disco nel 2004 uscito per la Zadig, Nani Nani 2, dove emerge totalmente la pazzia e la follia di Yamazukai, che lavora partendo dal jazz ma creando poi atmosfere completamente differenti, creando un flusso sonoro che uno all'inizio del percorso non si aspetterebbe mai, e questa è un po' anche la caratteristica che ritroveremo spesso in questa trasmissione nel corso di questo viaggio di stasera. Partiamo subito dunque, Nani Nani 2. Ricordiamo ancora chiaramente il nostro blog, dove potrete trovare tutte le informazioni e scaricare e ascoltare i podcast delle trasmissioni passate e anche avere altre notizie e informazioni e comunicare soprattutto con noi, con la nostra trasmissione, attraverso l'email o commenti ovviamente sul blog, che è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. Partiamo dunque subito. Unconventional Jazz from Japan, Yamazuka Ai, Nani Nani 2. Thank you. E siamo rientrati in diretta, sicuramente, certamente non si può dire che è un jazz convenzionale quello elaborato dal grande Yamazuka Ai, tutt'altro. Il lavoro è estremamente eclettico, spannante, disorientante dall'inizio alla fine, splendido lavoro che dal jazz arriva nelle più possibili e impossibili lande sonore, temporali e spaziali. Un lavoro splendido, questo Nani Nani Chu del 2004, uscito per la Zadig, un lavoro veramente magnifico. Ve lo consiglio ovviamente di ascoltarlo, di riascoltarlo se lo avete già ascoltato, perché merita anche a distanza di qualche anno per la genialità compositiva e strutturale dell'intero album. E da Yamazuka Ai andiamo a spostarci ancora chiaramente dentro la terra giapponese, mentre si sentono in sottofondo i sibili deliranti dei sax, dove è presente oltretutto nello stesso disco anche John Zorn, con cui Yamazuka Ai ha collaborato e lavora da parecchi anni. E ci spostiamo temporalmente soprattutto di circa 20 anni indietro. Andiamo a trovare un autore che è stato tra i più importanti musicisti legati al free jazz giapponese, Masahiko Togashi, nato nel 1940 e purtroppo morto 4 anni fa nel 2007. È iniziato come batterista per giovanissimo nei primi anni, suonando jazz abbastanza convenzionale, per poi sempre più spostarsi verso sperimentazioni più azzardate, più ardite, e arrivando poi a diventare un elemento stabile e fondante del gruppo di Sadao Watanabe, importantissimo musicista giapponese. Si è mosso sempre nel free jazz fino agli anni 70-80, per poi purtroppo trovarsi di fronte a un bruttissimo anche incidente che lo ha limitato molto dal punto di vista musicale, e dal 2002 aveva lasciato le scene. Il disco che noi andiamo a pescare è un disco del 1986, uno dei lavori più belli realizzati da Masahiko Togashi, intitolato Rings, dove appunto un doppio album. Togashi lavora in maniera assolutamente geniale e eclettica sulla tribalità, sulle percussioni, sulle ritmiche, inserendo poi delle melodie, delle armonie con grandissima intelligenza, perché riesce a unirle, a dialettizzarle molto bene con l'aspetto ritmico, percussivo, tribale, e per certi versi legato anche a una sorta di dimensione primordiale che, come ho detto all'inizio, è molto presente nelle musiche che ascolteremo stasera. C'è questo collegamento tra tecnologie, tradizioni, primordialità, tribalità, con aspetti futuristi, spaziali, verso appunto un futuro, un ignoto spaziale che dialettizza sempre appunto con le radici, con le tradizioni. Questo disco lo riesce a fare benissimo, questi piani, queste tastiere simil Rhodes che si inseriscono in maniera intelligentissima sulle percussioni, creando appunto un tappeto che si fonde interamente con il lavoro tribale e tribalista di Masahiko Togashi. A questo punto andiamocela a sentire, un viaggio ritmico percussivo che si aggancia in parte anche al brano che abbiamo orora ascoltato di chiusura di questo flusso sonoro spannante di Yamazuka Ai. Andiamoci dunque ad ascoltare il grande Masahiko Togashi da Rings 1986. Thank you. Thank you. Bis, bis, bis. Todo. Todo. Bis, bis, bis. Todo, todo. Ping. Bis, bis. Bis. Todo, todo, todo. Bis, bis. Ping. Bis, bis, todo, todo, todo, todo, bis, bis, bis, todo, ping. Siamo rientrati in diretta dopo questo delirio assurdista inserito, collegato diciamo al lavoro che abbiamo presentato e mandato in onda Aurora di Masahiko Togashi da Rings, ricordiamo ancora album del 1986, abbiamo collegato questa dimensione dadaista assurdista costruita da Natsuki Tamura, musicista e jazzista che si è sviluppato artisticamente nei primi anni della propria formazione in Giappone per poi spostarsi dal 1986 all'età di 35 anni negli Stati Uniti, dove appunto ha aperto molto di più le sue diciamo i suoi orientamenti musicali, si è fatto contaminare da molti stili musicali, dagli ambienti soprattutto di Chicago e New York, e ha aperto il suo orizzonte compositivo e anche strumentale verso appunto nuovi lidi, forse facendo emergere anche maggiormente la sua vena passata pazzoide e delirante, ha lavorato con grandissimi autori, musicisti importantissimi come Vada Deleo Smith, Hugh Regin, Don Cherry, Lester Bowie, il musicista che poi ha costruito insieme a sua moglie, che ritroveremo tra poco, Satoko Fuji, il progetto proprio della Satoko Fuji Orchestra che andremo a ascoltare alla fine di questa prima parte. Musicista che appunto è partito come esperienza musicale dal suo strumento, la tromba, per poi appunto aprirsi a un jazz molto concettuale, anche molto giocoso e, come dicevo inizialmente, anche dadaista. In questo lavoro, che è uscito nel 2004 per la Natsat, etichetta Natsat, lavora appunto in maniera molto interessante, con dei fraseggi alla tromba intervallate appunto da parti vocali, da poesie e da giochi appunto anche di no sense e appunto costruzioni assurde e paradossali alla voce, lavorando appunto soprattutto con l'idea di interazione tra strumento voce e strumento vero e proprio come la tromba e anche altri strumenti ritmici che nel corso del disco sempre si dialettizzano in una dimensione sonora molto affascinante dall'inizio alla fine. Oltretutto le frasi, le parole dette in giapponese, che io non oso nemmeno tradurre o pensare di aver intuito qualcosa, perché sarei veramente un buffone, ricorda per certi versi il modo appunto che abbiamo ascoltato queste frasi dette in giapponese, un famosissimo film che è uscito nel 1989, chissà se qualcuno se lo ricorda, ma gli amanti di Ghezzi, di Fuori Orario, sicuramente sì, Tetsuo, film splendido del 1989 diretto da Shinya Tsukamoto, dove appunto c'erano queste parole, queste frasi giapponese, e alcune veramente mi ricordavano il modo appunto di pronunciare, il suono, la vocalità, che è molto molto attenta da parte di quest'autore nel corso dell'album. E da questo momento particolare interessante di Tazuki Tamura ci spostiamo a presentare il prossimo progetto, che invece riguarda un contrabbassista che partendo dal jazz arriva addirittura a delle dimensioni, dei progetti anche di techno ambient e di elettronica estremamente audace. Si tratta di Kato Hideki, che ha lavorato con molti autori appunto tra jazz, elettronica, sperimentazione, jazz d'avanguardia come Tenko, Aino Keiji, la grande Zina Parkins, e anche con progetti importantissimi direi, con Fred Frith, Ikuemori, che nel 1995 fa uscire questo grande progetto, questo grande disco Death Ambient, che abbiamo anche mandato in passato, un lavoro assolutamente seminale per quanto riguarda gli anni 90 e gli anni 0, uscito per la Zadig. In questo caso invece andiamo a presentare un suo splendido lavoro uscito nel 1996, Hope and Despair. È un disco veramente splendido, dall'inizio alla fine le atmosfere cambiano continuamente, mantenendo però un'attenzione soprattutto all'aspetto del suono, strumenti variegati inseriti, sia strumenti tradizionali dal koto all'arpa, a momenti dove le trombe o i sax, i fiati emergono in maniera veramente geniale, utilizzando effettistica elettronica con grande grande intelligenza, creando delle atmosfere molto aperte, molto suggestive, per arrivare poi anche a momenti di pseudo jazz convenzionale che poi diventano assolutamente non convenzionali nella costruzione musicale. Ma ho parlato già troppo, andiamoci a sentire dunque dal disco Open Despair 1996, Kato Hideki. Thank you. E siamo rientrati in diretta, correndo purtroppo perché il tempo c'è tiranno, dobbiamo chiudere in maniera piuttosto affrettata con l'ultimo progetto che probabilmente non riusciremo ad ascoltare interamente, ma ripartiremo nella seconda parte. Si tratta appunto di Satoko Fuji, che avevo già preannunciato, moglie di Tamura, che abbiamo ascoltato in precedenza, una delle musiciste, delle compositrici più interessanti nate negli anni 90 nel free, perché lei nasce riferendosi moltissimo al free jazz, in particolare Cecil Taylor, e autrice di un progetto importantissimo nell'ambito giapponese, il jazz più sperimentale legato al free ma anche alla modern creative, Satoko Fuji Orchestra appunto, e andremo ad ascoltarla dal disco ultimo uscito a fine del 2010, Zacco Pain, e ovviamente ci risentiremo dopo il GR di Radio Popolare e purtroppo rientreremo con il brano che sarà sicuramente tagliato, ripartiremo nella seconda parte e sicuramente spenderemo qualche parola in più su Satoko Fuji, ma il tempo è quello che è. Buon ascolto dunque con questo ultimo lavoro di Satoko Fuji e a risentirci dopo il GR di Radio Popolare Network. Thank you.